E. Fonetica. Ascolta e ripeti. A. Rosa. Contenta. La domenica. La sera. La vacanza. Pausa. O. Chiusa. Sono. Marito. Corso. Arrivo. Lavoro. Ritardo. Ora. O aperta. O. Comodo. Poi. Scuola. Buono. Rosa.